Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Presidente Cossiga, buongiorno. Sono Alessandro Milan di Radio 24. Ah, Alessandro Milan. Buongiorno. E chi è? Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Ah, che tempi lontani, alle 9:07 minuti ci siamo, cari ascoltatori, in questo venerdì, lo annuncio subito, un venerdì speciale, particolare, intanto perché purtroppo c'è Paolo Corleone in regia e di questo ci dobbiamo accontentare. Eccolo lì, insieme a Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, siamo alle 9:08 minuti. Pronti con tutti voi all'800240024, al 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pronti a che? Pronti ad accogliere dopo il Premier Conte, mettiamo in ordine prima il Premier, accogliere lui. I will not be easy and it will not be easy. Non sarà facile e non è stato facile, ma eccolo qui, torna con noi il signor Mario Calabresi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Mario, ciao. Guarda come ti accolgo. Ibrahimovic. Ti accolgo così. Attenzione, ti accolgo così. E porta avanti Milan al 23esimo minuto. Ti accolgo così. Ibrahimovic apre il conto. Fuochi pirotecnici per il ritorno di Calabresi. Visto? Ascolta. Sì, mi hai fatto venire in mente. Io sentivo Cossiga, che meraviglia. Sì, quel Cossiga, Milan chi? Sì, tu devi sapere questo. Io facevo il cronista all'Ansa. Negli anni in cui Cossiga aveva messo su il suo partito, aveva fatto nascere il governo D'Alema, eccetera, eccetera. Io ero un cronista all'Ansa. E allora lui gli venivano in mente delle cose tipo alle 6:30, 7 del mattino, chiamava, come voleva fare, certo, delle dichiarazioni all'Ansa, mi telefonava. Sì. Io naturalmente alle 6:30 avevo il telefono spento e purtroppo queste cose non si salvano. Un giorno ricordo che trovo nella segreteria il messaggio che mi diceva: vergogna, stai dormendo, sono le 7 di mattina. Chiamo tua madre e ti denuncio. Pensa che io ricordo la stessa cosa quando lavoravo con Giancarlo Santalmassi, qui a Radio 24, sì. Arrivavo in redazione alle 7:30 e lo vedevo Santalmassi, certo, al telefono, certo. Io mi avvicinavo e dicevo: ma chi è che alle 7? E lui mi guardava e diceva: così. E lo asciugava in telefonate lunghissime con Santalmassi, che non sapeva come uscirne. Grande presidente Cossiga. E va bene. E grande Calabresi, ben ritrovato. Qua la gente ti reclamava. Grazie. Ti reclamava. Benissimo. Eccolo qua. Un po' posticci questi applausi, ma li abbiamo sempre pronti. Allora, caro Mario, ci sono tante cose di cui vorremmo parlare. Io sono un po' colpito quando leggo i giornali italiani, giornali che tu conosci molto meglio di me, visto che li hai diretti, insomma, sai come funzionano. Però leggere che le aperture dei giornali sono ancora sulla scuola, oggi c'è la notizia del TAR che dà ragione alla regione Piemonte, per cui la febbre va misurata a scuola e non a casa. Io, secondo me, se si apre Le Monde, il New York Times o qualche giornale tedesco o ti devo dire la verità, Guardian, Non ti voglio deludere a fare quello, però alla fine invece anche loro scrivono tutti di Covid, in una salsa o in un'altra si parla ancora di Covid, cioè c'è più attenzione anche al resto. Non sono monotematici, però alla fine, per dirti, stamattina il New York Times apre col fatto che le linee guida del centro CDC, il centro di Atlanta, diciamo, che controlla le malattie negli Stati Uniti, Le linee guida sono state scritte non dai medici ma dalla Casa Bianca. Ah beh, e da che Trump dicono, in persona, se non hai magari i sintomi non devi fare nessun test, perché il problema è che se poi trovi gli asintomatici ti si alza il numero di quelli contagiosi e quindi è meglio non dare i numeri visto che siamo in campagna elettorale. Quindi in un certo senso, che sia politica, che sia servizio, eccetera eccetera, si questa cosa qua lì torna. Ti devo dire questo, quella della scuola è un tema vero, perché ma quando mai? Ma tu pensa se tutte le mattine i genitori, magari uno ha due figli, tre figli, quattro figli, misurano la febbre a tutti, poi scrivono tutto su un foglio, eccetera eccetera. Sì, ma per me è incredibile che se ne debba dibattere, cioè, la scuola è già iniziata, che ci debba mettere in mezzo il TAR per dei ricorsi, cioè, capisci? Io credo fai che delle paura, linee guida e basta, e sì, segui quelle. No. Forse possiamo dire serenamente che la scuola è la cosa che è stata peggio gestita in questi mesi dal governo. Tante cose sono discutibili, la scuola è stata veramente lasciata molto al buon cuore dei presidi, che si sono dovuti prendere responsabilità, riorganizzazioni, sì. Sono mancati, cioè, non diciamo che non c'è, per dirla con un eufemismo, manca una guida illuminata al Ministero della Scuola. Senti, però sull'America mi fai fare un salto indietro, ti voglio chiedere, tu avresti fatto come Bob Woodward, grande giornalista, no? Sappiamo, Nixon, il Watergate, che però aveva queste registrazioni di Trump di qualche mese fa, in cui Trump ammette di avere un po', per non impaurire la popolazione, sminuito la vicenda del coronavirus. Sai che Woodward dice: io ormai non faccio più il giornalista, quindi non avevo il dovere di farlo sapere subito, e le ha tenute per un bel libro. Il fatto che abbia tenuto per mesi le frasi del presidente su un tema così delicato per metterle in un libro ha permesso a Trump, secondo me Trump alla fine non è uscito male da questo, ha permesso a Trump di dire: ma se queste cose erano così fondamentali per la salute del paese, se quello che ti ho detto era così grave, perché te lo sei tenuto per vendere di più nel libro nascosto, per vendere il tuo libro, quindi anche tu non ci tenevi molto ecco, la salute della salute ma lui pubblica, è il uno è il presidente, certo. Uno è un privato cittadino, cioè, quello lì diciamo però se tu hai le informazioni non sei tanto un privato cittadino, sì, in quel caso sì, secondo me non ha fatto una grande figura. Ma come finiscono queste elezioni? Adesso tu ci dovrai fare un po' di pronostici. Ragazzi, mancano meno di due mesi e si vota per l'uomo considerato più, lo dico l'uomo perché sono due uomini, ma insomma se fosse una donna, insomma, la figura più importante al mondo, si dice, più potente al mondo. Io ti dico questo, ti direi che secondo me Trump continua a restare favorito. Trump è favorito perché, intanto perché il presidente in carica è sempre favorito, perché lui, il suo zoccolo duro, che è quello che l'ha eletto l'altra volta, alla fine è soddisfatto di quello che ha fatto Trump. Quello che lui aveva promesso, le promesse le ha mantenute. Sarò duro con gli immigrati, farò la guerra commerciale alla Cina, rivedrò i trattati di commercio col Messico e col Canada, cioè tutte queste cose lui le ha fatte, metterò dei giudici ultraconservatori alla Corte Suprema, antiabortisti, queste cose lui le ha fatte, quindi il suo elettorato è soddisfatto. Lo segue. E poi c'è una cosa, l'avversario che è stato un politico di razza, Joe Biden, ma... cioè non rappresenta, dici facciamo un cambio, c'è una novità, è uno che è entrato al Senato degli Stati Uniti nel 1972, forse era la Camera, comunque sia, al Congresso nel 1972, cioè è consumato dalla politica, sì. Ed è un abbastanza assente, non ha un piglio, una presenza, quindi io devo dirti che oggi Trump appare ancora in vantaggio. Però si capisce che ha paura. Per esempio, ha paura del voto postale. Ma che cos'è? Il voto sono postale. Tanti, Siccome i sondaggi gli dicono una cosa, che molta gente ha paura di andare a votare perché ha paura delle lunghe code, ha paura del Covid. E quindi si immagina che questa volta su 300 milioni di americani, che i cittadini, 330, però si immagina che possano arrivare anche a votare per posta 80 milioni di persone. Siccome lui conosce i sondaggi dicono che, bene o male, più dell'80% di quelli che votano per posta votano per i democratici. Quindi Trump ha nominato capo delle poste un suo fedelissimo, sì, a giugno, e sta cercando di boicottare il voto postale perché sa che quel voto è un voto a lui favorevole. Cosa fa il capo delle poste? Straccia le lettere? Siccome tu dovresti investire molto per rafforzare nelle ultime settimane il servizio postale, il ritiro della posta, lui invece non lo sta facendo. Quindi tu ti troverai ritardi. Tu immaginati che caos può succedere se il voto dalle urne lo vincesse di un soffio Trump. Mm-hmm. Poi arrivano in ritardo, conteggiati nei giorni successivi, perché sono in ritardo quegli altri, e quegli altri dicono: ha vinto Biden. Tu immaginati il caos. Trump direbbe: hanno fatto i brogli democratici nelle poste. Meglio rallentare, meglio ostacolare qualche raccomandata. Esatto. C'è un dettaglio che ti do ancora l'ultimo. Perché favorisce di più i democratici? Perché tutto, siccome negli Stati Uniti si vota di martedì, mm-hmm, questa volta è martedì 3 novembre, e quindi in un giorno normale, non si vota la domenica, quando la gente va a lavorare, le code sono sempre lunghissime, quindi tu ti devi prendere per votare una mezza giornata o una giornata di ferie dal lavoro. Tutti quelli neri, cioè gli afroamericani, gli ispanici che votano democratico e che fanno i lavori più umili e più bassi non possono permettersi di prendere un giorno di ferie per andare a votare. Il voto per posta gli permette di farlo senza pagarle un prezzo, certo, sulla busta paga, ok? E questa cosa qui potrebbe sovvertire in alcuni stati, perché poi tutto si deciderà in 4-5 stati, si decide in Florida, in Pennsylvania, in Wisconsin, mm-hmm, in Arizona, cioè in quegli stati in cui, per esempio la Pennsylvania, il Wisconsin, l'Ohio, le ultime volte erano stati democratici, mm-hmm, questa volta Trump li ha vinti perché c'è l'operaio bianco, cioè l'area della disoccupazione, sì, della fine, sì, delle industrie, eccetera, eccetera. E quella lì è tutta l'area in cui la gente dice era stanca. Lì si gioca tutta la battaglia. E il voto postale è una di queste. Ma vedremo. Elementi. Allora, adesso noi però dobbiamo introdurre un ospite. Certo, io ti dico questo, Mario, arrivano anche questi messaggi. Scusate, stamattina mi è arrivata la newsletter di Calabresi, ma l'ho cancellata per sbaglio. Potete chiedergli se me la rimando? Vabbè, adesso io non lo così. So. Che cavolo possiamo fare? Fatti mandare l'email di questa persona. Sì. E non gliela diciamo, manda l'email, tu me la giri e gliela rimando. Va bene, così. Okay, dai, allora, servizio caro, a domicilio. Caro ascoltatore, mandami la mail. Gli puoi anche dire che eventualmente c'è anche la casella della posta eliminata da cui si potrebbe recuperare. No. Va bene, mandami la mail, caro ascoltatore, guarda, c'ho qua il tuo messaggio aperto, io do la mail privata a Mario Calabresi, che farà eccezionalmente questo lavoro per te. Vabbè, siamo a questo. Però, caro Mario, io voglio salutare il presidente di Exit Italia, Emilio Coveri, che spesso abbiamo ospitato. Buongiorno, Coveri. Buongiorno, siete i soli. Buongiorno. Lo so, Coveri, e questa cosa effettivamente la dice. E vi siamo grati. Non avete mai tanta voce. Allora, no, Exit Italia è un'associazione che si batte per il diritto a una morte dignitosa. Allora, Emilio Coveri rischia di finire a processo, è stato chiesto il processo per istigazione al suicidio. È una vicenda simile per il reato ipotizzato a quella di Cappato. No. Ferma, è tutta un'altra cosa. Lo so, Coveri. I parenti con Cappato erano tutti d'accordo. Questi qua si sono costituiti sette in parte civile perché vogliono occupare qualcosa dalla ex. No, ma soprattutto è diversa la vicenda perché Coveri non ha accompagnato nessuno in Svizzera. Ma però ha scambiato una serie di informazioni con Alessandra Giordano. Certo. Che poi è andata in Svizzera autonomamente a finire la propria vita. Esatto. Intanto ha paura, Coveri, di questo processo? Ma uno dovrebbe avere paura se ha la coscienza sporca e se ha fatto qualche cosa che non doveva fare. Noi della Exit Italia, lo statuto stesso della Exit Italia dice che noi perseguiamo determinati obiettivi che sono quelli, soprattutto il testamento biologico, e lo abbiamo raggiunto. E mi permetta una cosa, di fare un appello al vostro Presidente della Repubblica, signor Mattarella, che lei è garante della Costituzione e dei signori del CSM. Non c'è stato un Mediaset, un Rai, un Cairo della 7 che ha parlato della legge 219/2017 sul biotestamento, cioè le disposizioni anticipate di trattamenti. Nessuno ne ha parlato. In Italia c'è l'eutanasia attiva nel caso in cui una persona non possa più essere in grado di intendere, di volere, non possa più decidere, il suo fiduciario lo porta in un ospedale, gli fa una sedazione profonda e poi gli toglie un'alimentazione e idratazione. Cosa è successo anche con Anastasia, il calciatore della Juventus, quell'altro calciatore di Foggia e tanti altri. Non lo dicono alla gente, la gente non sa che cosa c'è, c'è una mancanza di informazione su questo. Ma però, è terribile, terribile, mamma. Il punto, Coveri, che questa donna che è andata in Svizzera, e ne parlavamo per conto suo, era depressa, credo, no? No, non era depressa. Allora, io l'unico contatto che ebbi, perché lei si voleva iscrivere, che io le feci fare il testamento biologico, mi ricordo perché era d'estate, ad agosto, ed ero in barca in Sardegna, a casa mia. Allora, a un certo punto mi telefona e mi dice: senta, io so dell'esistenza della digna, non ne posso più perché ho la sindrome di Eagle, che è stata anche tra l'altro negli atti, sono 1500 cartelle depositate al Tribunale di Catania, dove c'è appunto che il San Paolo di Milano ha indicato questa sindrome, per cui gli ha fatto un certificato alla signora Alessandra Giordano. Ma che cos'è? Ci spiega che cos'è. Che non la conosciamo. Che ha mandato alla Dignitas. E ricordiamoci una cosa. Sì, ma cos'è, Coveri, questa sindrome? Una malattia grave, irreversibile. Di che tipo? Non ti accettano, attenzione. Scusi, no, per capire, non siamo medici. Grave, irreversibile, di che tipo? Una malattia di che tipo? È una malattia che non ti consente più e ti dà la sofferenza. Non ti consente più di vivere. Questa signora ha dovuto mollare il lavoro perché era insegnante e non riusciva a stare in piedi. Quando mi parlò per ben due volte soltanto, mi interruppe la conversazione e mi disse: Coveri, abbi pazienza, ma io devo andarmi a riposare. E mi ha ritelefonato il giorno qui dopo. Io ho avuto solo due contatti. Gli ho detto: va bene, ti sei già messo in contatto con la Dignità, fai tutto con la Dignità, c'è tutto su internet. Lei ha fatto tutto. Mi telefonò una volta soltanto dicendo: ho ricevuto finalmente il certificato dall'ospedale di Milano. Allora, e io lo mando Allora, siccome c'è Mario Calabresi, l'ho cercata io. Insomma, la sindrome disturbo dei legamenti che collegano il cranio all'osso ioide del collo e causando sintomatologia dolorosa, bocca, testa, dolori atroci. Allora, però il tema è questo, e vorrei un attimo coinvolgere Mario Calabresi, perché Emilio Coveri, al di là del caso Giordano, dice, sostiene che anche la depressione sia una forma, che è una forma grave di malattia di cui soffrono molte persone, possa essere un viatico per dire: io non ce la faccio più, sono depresso, ho diritto a una morte dignitosa. Su questo, Mario, so che tu, tra l'altro, mi citavi prima la tua newsletter e non eri molto d'accordo su questo principio. No, io devo dire la verità. Tutto questo tema è un tema delicatissimo con infinite sfumature, non entro nella questione del processo perché io non ho idea della questione della situazione. Credo però che ovunque, dove non ci sia una malattia incurabile, e io non posso pensare che l'ultimo stadio della SLA sia paragonabile alla depressione, io credo che tutti gli sforzi debbano essere per salvare una vita umana e per stare accanto a una persona che è depressa e per cercare di aiutarlo. Cioè, da questo punto di vista, indicargli un'uscita dalla vita, io non la non trovo. Non sei d'accordo? Che, e qui c'è, no. C'è il dibattito etico, Coveri. Lei invece è dell'idea. Lucio Magri, ricordiamoci, sì, di certo, Lucio Magri. Certo, Lucio Magri era giornalista. Al massimo è andato a Bellinzona, non è andato dalla Dignità, insomma, hanno scritto tanti giornali. Si è trovato il professor Cavalli, professore di Bellinzona, che dopo tre anni su e giù l'ha fatto andare su e giù, a parte che lui abitava a Lugano, e poi alla fine, dopo il terzo anno, gli ha dato. Gli ha concesso appunto Ma su questo c'è un dibattito, Coveri, c'è chi è contrario. Certo, ma va benissimo, ma quello che noi volevamo, infatti, nei nostri programmi era quello di ottenere il dibattito sull'eutanasia nel nostro paese, se è giusto o non è giusto. Chi dice che non è giusto, non si sente roba del genere, io per carità lo rispetto totalmente. Sono loro che non rispettano noi perché cominciano a darci del boia, della gente che vuole far fuori gli anziani, di tutte queste cose. Noi uccidiamo, terribile, lasciamo stare. Però noi quello che vogliamo, io quello che voglio dire, noi abbiamo sempre condotto una forma di invito ai nostri iscritti, che siamo in 5.000, di fare il testamento biologico, perché tu metti per iscritto la tua volontà e va rispettata. Cioè, se vogliamo rispettarlo, questa è la libertà di scelta. Rientra nel diritto di ciascuno di noi. Ci rispettiamo a vicenda oppure abbiamo sempre solamente una volontà? No, ma su questo però, e anche sulla mancanza di informazione di questo, su questo ha ragione Cover. Effettivamente, Calabresi, c'è stato il dibattito al momento della legge, poi non è che si vedono mai grandi dibattiti su questi temi, che lo so, poi vanno a intercettare un aspetto della vita molto delicato, perché non è... Non è facile parlare anche del fine vita, ecco, questo è un po' il tema. Mario, ma tu è vero che hai intervistato un signore di 102 anni, anzi mi hai detto di 102 anni e mezzo, perché adesso è bene che si contino anche i mesi. Che si chiama Francesco De Bartolomeis e vive a Torino e pensa che lui è il padre del tempo pieno, è un pedagogista e la cosa fantastica, l'ho intervistato, è un uomo perfettamente lucido e vitalissimo. Pensa che tutte le mattine va in piscina alle 8:30 e nuota 45 minuti. A 102 si fa. Mi ha detto, prima facevo 50 vasche, adesso nell'ultimo tempo ho ridotto 20-30 e poi faccio ginnastica in acqua. Mm-hmm. E la cosa che mi ha colpito è questo... E questo non stare a guardare indietro. Mm-hmm. Uno di 102 anni e mezzo che ha perso, naturalmente, il suo grande dolore è stato la perdita di un figlio, mm-hmm. però dice non c'è più nessuno, né della mia famiglia, né dei miei coetanei, non ho più nessuno. Mm-hmm. E quindi alla fine arrivare a quell'età vuol dire anche avere tanti dolori. Però lui non ha nostalgie. Mm-hmm. Perché non guarda indietro, continua a pensare cosa faccio oggi, cosa faccio domani, vado con gli amici al ristorante, vado a fare una passeggiata, stupendo, leggo un libro, ha la fortuna di stare perfettamente in salute. Certo. Pensa che stamattina mi ha scritto una mail per ringraziarmi dell'intervista che gli ho fatto e mi ha mandato una cosa con in file attach, cioè a 102 anni lui usa, allega foto, fa cose, un personaggio incredibile. Nella famosa newsletter che l'ascoltatore ha cancellato, ma mi ha mandato la mail che ti ho già girato. Milan, ma l'hai offerto il caffè stamattina a Calabresi, per favore, pago io. No. Niente, non ho beccato il caffè neanche stamattina. Ecco, va bene. No, ma noi facciamo così allora, saluta Emilio Coveri, la promessa mia è di seguire questa vicenda, va bene? Adesso non c'è tempo perché dobbiamo andare in pubblicità, ma la promessa è di seguire questa vicenda giudiziaria, poi almeno per il poco che possiamo fare noi un po' di informazione qui sul tema la facciamo. Dopodiché, Mario, sai che in Italia c'è una cosa che indigna tutti i giornali, eccetera, questa cosa del reddito di cittadinanza ai familiari di coloro che sono accusati di aver ucciso Willy. E fanno bene. Il punto non è che sono familiari di qualcuno che ha ucciso, perché non è che c'è scritto nella legge, no. Lo possono prendere solo i familiari, i genitori di ragazzi per bene. Il punto è che avevano nascosto i loro redditi. Avevano nascosto i loro redditi e quindi con dei figli che facevano la vita anche grazie ai loro soldi prendono reddito di cittadinanza, è una roba che è atroce. Detto questo, io sono contrario fin dal giorno 1 al reddito di cittadinanza. Penso che sia sbagliato, perché penso che anziché preoccuparsi di costruire lavoro, occasioni, opportunità, invece si dice io ti do una... Ti metto tranquillo, mi rassegno al fatto che tu non hai lavoro e ti do questi soldi che dovevano servire, ti ricordi, a formare, non si è visto niente. Si è vista solo niente. La parte assistenzialista fino a questo momento. Esatto. Detto questo, però, non è che adesso possiamo dire quella misura è sbagliata a monte, non è che possiamo dire che è sbagliata perché alcuni hanno truffato, perché allora anche le pensioni ci sono quelli, le pensioni di invalidità, ci sono un sacco di falsi invalidi, ma non è che la pensione di invalidità è sbagliata. Sì, ma il mio timore, Mario, è che se l'italiano fornisce un pretesto per portare alcuni a fare i furbetti, ci sarà sempre una bella dose di furbetti. Allora, se ne fornisci 10 di pretesti, se ne fornisci 15, se ne fornisci 20. A proposito di questo, sai qual è la più bella notizia secondo me di ieri? Quale? Che non ha avuto così tanta attenzione. È il fatto che la Banca Europea degli Investimenti, la BEI, mm-hmm. da tanto, una di quelle istituzioni europee tanto odiate, ha fatto un finanziamento record, mai visto nella storia, 2 miliardi di euro a tasso zero per costruire l'alta velocità tra Bari e Napoli, che potrebbe essere pronta nel 2026, siccome che significherebbe andare da Bari a Napoli in 2 ore, oggi ce ne si mette il doppio. Siccome l'Italia è collegata da nord a sud, ma se tu devi passare dal Tirreno all'Adriatico è un certo. viaggio della speranza. Secondo me collegare le due parti del sud in maniera efficiente e veloce è una grande cosa. E il fatto che ce la finanzi l'Europa è una grandissima cosa. Allora, caro Mario, noi ci fermiamo. Hai l'impegno di scrivere a questo ascoltatore, ti ho mandato la mail. Lo faccio subito. Subito. E tu hai l'impegno di prendere il caffè a questo sì. punto. Mi regali una torrefazione e andiamo in pari. va bene. Ci sentiamo presto, quando vuoi, Mario. Ciao, Calabresi. Buona giornata a tutti. Grazie. Trovate ovviamente su mariocalabresi.it la sua newsletter del venerdì. Ecco, se vi arriva, non cestinatela come l'ascoltatore, che poi mi tocca chiamarlo e farvelo rimandare col piccione viaggiatore. Tra poco ci sarà Leonardo Manera, ci chiedono ma è ancora in autostrada? No, è qui che si aggira, caro Leonardo è riuscito a uscire dalla stazione di servizio e ci ha raggiunti. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ma visto che il contagio zero sappiamo che non esiste, ci può dire qualcuno qual è il livello fisiologico di contagi che ci possono essere per il nostro paese? I 1500 di ieri sono un livello normale o dobbiamo essere qui tutti a preoccuparci e a strapparci i capelli? Mi spiego, magari non lo sanno neanche loro. Se le cose vanno fatte per bene, la febbre si misura a casa. Perché poi il bambino va sull'autobus, sta in fila con i compagni e può contagiare gli altri se ha il Covid, non misurarla a scuola. Paolo da Verona, buongiorno. Fenomeni. Eccoci, pensate fenomeni. A tutta quella gente che senza il reddito di cittadinanza sarebbe morta di fame a quest'ora. Siete bei fenomeni, Leonardo Manera! Eccoci, oggi qua. Presente in studio, ho fatto il sacrificio. Il grande sacrificio. Mi sono sacrificato, sono venuto da casa mia con una borsa, tra l'altro pesantina. C'è una valigia, perché sei arrivato con una valigia? Sei in partenza? Sono in partenza insieme a te per Treviso. Ah, è vero, oggi partenza siamo... Partenza insieme a te relativamente, perché tu partirai quando avrai fatto tutti i tuoi comodi. Siamo a Treviso. No, diciamolo prima bene. Prima devi fare i tuoi comodi. Perché, allora, siamo a Treviso a che ora? Alle 20, ore 20. No, alle 19. Alle 19. Hai già sbagliato. Vabbè. Dove? Al Festival della Statistica. E della Demografia, secondo errore. No. Dove esattamente a Treviso? A Treviso. Dove? Treviso è lì. Siamo in Loggia dei Cavalieri, se volete alle 19 ci trovate alle 19. Ah sì, venite a trovarci, portateci anche qualche regalino, qualcosa. Sì. Siamo lì a fare cosa? Sai che non so esattamente ancora, non ho capito esattamente. Vabbè, no, non dire così. Dai, è la verità. Dopo lo diremo, abbiamo tempo fino alle 11, così nessuno viene a vederci, spoileriamo tutto. Adesso però alle 9.39 minuti vogliamo ospitare e lo saluto, vogliamo salutare Emanuele Fiano, deputato del PD, ma qui Emanuele Fiano noi ci conosciamo, io lo presento anche in veste di figlio di Nedo, sopravvissuto, unico sopravvissuto della famiglia ad Auschwitz. Buongiorno Emanuele, grazie di essere qui con noi. Buongiorno Milan. Perché abbiamo chiamato Emanuele Fiano? Perché io sono rimasto sconvolto. C'è questa app TikTok che va molto per la maggiore tra i ragazzi in tutto il mondo, è anche dibattuta per i rapporti con gli Stati Uniti, eccetera. L'ultima moda, la definisco così, moda, sarebbe l'Holocaust Challenge, giuro, eh? Cioè ragazzini e ragazzine che si travestono da persone che sono in campi di sterminio. Giuro, Emanuele Fiano, è così. Che si può dire? Non ho da aggiungere altro. Boh, si può dire poco. Per me è come forse penso si possa capire, qualsiasi idea di gioco, il nome stesso challenge diciamo una sfida, induce a pensare che sia una gara fatta sulla Shoah, per me è inaccettabile. Perché è la banalizzazione di quel male. Sì, può sì. anche essere che alcuni di questi ragazzi, diciamo così, armati di buoni sentimenti, volessero rivivere o ricreare l'apparenza, la condizione di uno di quei prigionieri, ma io penso che comunque sia un percorso sbagliato quello di falsificare la realtà. Sì, magari qualcuno parte con l'idea sensibilizziamo sul tema, ma quando sì. finisci in una situazione del genere, così di massa, non emerge neanche più la tua posizione rispetto... Poi sui social, diciamo, non dobbiamo spiegarci niente di cosa può succedere sui social, in particolare sui social che oggi, come vediamo tutti, hanno un livello di filtro spesso molto, molto basso, per cui chiunque dal livello più basso di sensibilità e di morale può fare quello sì, che sì. vuole. Ma più in generale io direi, ma la Shoah, per carità, anche altri crimini contro l'umanità, non solo la Shoah, non deve essere oggetto né di gare né di competizioni, né di giochi, né di falsificazioni, anche perché noi dobbiamo stare attenti sulla Shoah che non si inventino le storie. La narrazione esatto. vera della Shoah è già abbastanza terrificante, quindi vanno raccontate e fatte sentire le parole vere dei testimoni. Oggi Liliana Segre è una testimone straordinaria e fin quando mio papà poteva raccontare lo è stato lui, tanti altri, Piero Terracina che non c'è più, Sami Modiano tanti anni fa, Primo Levi, lasciamo raccontare a loro com'era la loro vita da prigionieri, com'erano i loro abiti. Io conservo sempre nel mio armadio la casacca con cui è tornato mio padre, la casacca a riga con cui è tornato mio padre quando fu liberato a Buchenwald, che poi fu prestata da mio padre a Benigni perché ci realizzasse gli abiti della vita bella. Però secondo me in questo campo vanno fatte parlare le cose vere, anche perché dietro l'angolo c'è sempre qualcuno che dice no, ma state raccontando il falso o vuole sì. negare quella il storia. Il problema, Fiano, è quando queste persone, che ormai sono tutte molto anziane, non ci saranno più, si pone una questione di chi potrà portare avanti il senso della memoria, no? Sì, c'è un bellissimo libro di Davide Bidusta che si chiama Dopo l'ultimo testimone, scritto ormai 10 anni fa, che si poneva questo problema, e giustamente lui diceva una cosa che anch'io credo, che la memoria dopo diventerà un fatto da condividere tra i vivi, cioè tra la seconda generazione, noi insomma, più o meno lei ed io siamo grosso modo della stessa generazione. Cioè noi dovremmo essere i portatori non solo di quel racconto che comunque per fortuna anche dopo, speriamo più tardi possibile, la sparizione dell'ultimo testimone potremo perpetuare con i video, con gli audio, con i libri, ma dobbiamo prenderci l'impegno di raccontare ancora noi che cosa è potuto succedere, soprattutto perché, mi ricollego a questo gioco di TikTok, ci sarà sempre di più, ci saranno quelli che dicono quella storia non è vera. Eh sì, perché diranno, vedete, sono quasi delle recite. Esatto. Però insomma io penso che... Per carità, anche questa finirà, questa moda secondo me aberrante finirà in tempo zero, e come è nata finirà. L'unico vantaggio è questo, che queste mode tra i ragazzini durano poco, nascono e finiscono subito. Certo, se ne poteva fare a meno, ecco. Se ne poteva fare sicuramente a meno e sarà sempre più difficile, diciamo così, dominare tutto quello che succede sui social, perché per fortuna lei è una persona sensibile e ha accolto questa cosa, che ha trovato anche la protesta delle comunità ebraiche, ma non sempre riusciamo a cogliere tutto. Cioè, ricordiamoci che sui social vendono oggetti drammaticamente insultanti o irridenti, la Shoah, lei si ricorderà la maglietta di quella ragazza a Predappio. Sì, sì, come no. Quindi ormai si trova di tutto e meno male che reagiamo, bisogna continuare a reagire, ma non è una questione che riguarda solo gli ebrei o solo i testimoni, è una questione che la falsificazione della realtà riguarda tutti noi. Un giorno tocca la Shoah, un giorno tocca a altro, forse perché di fronte a drammi così giganteschi rispetto alla nostra esistenza, la mente umana corre a cercare di pensare che non sia accaduto o che sia stato una cosa di dimensioni ridotte. Per questo bisogna invece combattere l'idea che possa trasformarsi in un gioco, in una rappresentazione, sì, o in una gara. È così. Grazie Emanuele Fiano, grazie. A presto ovviamente. Grazie di essere stato qui. Guarda qua, Leonardo mi dà lo spunto, perché arriva un messaggio che mette insieme due cose che non c'entrano nulla, cioè quello di cui abbiamo parlato, e però Massimo da Como, con rispetto, io dissento, dice: i ragazzini fanno l'Olocausto Challenge, è terrificante, ma leggere che gli adulti ha realizzato il film comico sul lockdown, mi arrendo. Cioè, c'è questa polemica su cui sì, oggi ci scrivono sia Gramellini che Mattia Feltri su Vanzina e il film Lockdown, sì, all'italiana. Ma ragazzi, ma cioè è un film che, se ho capito bene, a parte che uscirà a Natale, quindi nessuno ha visto neanche una immagine. Sarà il solito cinepanettone in cui si parla di coppie che durante il lockdown vivranno le loro solite robe da cinepanettone, tradimenti, tra l'altro corna. So che tu li hai visti tutti i cinepanettoni, no, tu sei cliente fisso del cinepanettone, no, oggi Boldi De Sica. Ho scritto su Facebook che mi ven voglia, per polemica, di andare a vederlo. Beh, non si può, ma come, cioè, il titolo Lockdown all'italiano non si può fare, perché sarebbe irridente verso i morti. Ma cosa stiamo dicendo? Ma cosa c'entra? Io rinuncio, guarda, rinuncio. Rinuncio, vedi che... Come diceva mia madre, rinuncia, io dico rinuncio. Anche se tu, è vero che tu sei un appassionato di cinepanettone. Sì, ogni volta che vengo a casa tua dici: guardiamo un cinepanettone. Cosa vuoi, Natale sul Nilo? Natale sul Nilo non era neanche male, tra l'altro. I primi... Ma tu l'hai visto? Certo che l'ho visto, ma c'erano i miei amici. No! C'erano i fichi d'India, sono i miei amici i fichi d'India. Ah sì, nel senso, pensavo, sono andato con i miei amici. No, al cinema no, però i primi erano belli. I primi cinepanettoni erano, giuro, i primi due. Non ne ho mai visto bugiardo mezzo. Guardate come mente questo, ma tutta la collezione, appena entri in casa sua, sulla sinistra c'è l'arma zero, ma non mi vergognerei. Scaffale cinepanettone. Per esempio, il mio maestro, sì, Giancarlo Santalmassi, ce li dava a vedere tutti rigorosamente, perché attraverso quella visione aveva un punto di osservazione degli italiani, dell'italiano medio, diciamo, molto interessante. Ma scusa, chi è il chi è il regista? Vanzina. Allora sì, proviamo a chiamare Vanzina uno di questi giorni. Chiamiamolo, dai, per lunedì. Sfida Fusconi, io l'ho anche conosciuto, sai, Vanzina? L'ho conosciuto perché andai a fare un provino per Febbre da Cavallo 2, La Mandracata, sì, ti ricordi quello famoso con Proietti? Poi fecero il remake e io venni convocato per il provino. Per fare cosa? Il cavallo, tu? No, per fare il ragazzo appassionato di tecnica, diciamo, sì, e venni scartato clamorosamente. No. Sì, clamorosamente non lo sai, scartato. Sì, venni scartato. Non richiamato. Non richiamato mai più, il classico "le faremo sapere". Traffico. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao, Carlo da Napoli. La domanda è: non ho mai visto una mamma mandare a scuola un bambino con un pochino di febbre. Figuriamoci adesso. Ciao. Messaggio per Leonardo: ho appena ricevuto una raccomandata dall'ENA Sarco con le istruzioni per votare. C'è un QR code che si fa con il cellulare. Vota ENA Sarco, vota ENA Sarco. E niente, ormai hai creato questo tormentone terribile. È il mio sogno, partecipare alle elezioni ENA Sarco. Ma iscriviti e vota, ma cosa vuoi? Ma iscriviti all'ENA Sarco e vota! Ma come si fa a iscriversi? Ma cosa è per so, gli agenti di commercio l'ENA Sarco, è il loro sindacato. Io voglio diventare agente di commercio, cosa posso vendere? Tortellini. Tortellini? Non lo so, tortellini. C'hai una valigia qua, ci avrai dentro delle cose da vendere. Delle parrucche dentro la valigia. Se mi ferma la polizia pensa che vada a rapinare una banca con delle parrucche. Io voglio partecipare alle elezioni ENA Sarco. Ho sentito che forse ci sono, sei in ritardo ormai. Ci sono tre liste, ho sentito, fino adesso. Fino adesso, no? Sì, so. Ci sono tre. Più di tre liste? Fateci sapere. Bellissimo, perché poi veramente io più che votare per il referendum domenica vorrei votare per le elezioni in Asarco, ma sono frustrato in questo. Vabbè, dai, vai, vai. Domenica appunto saremo chiamati a votare per confermare o meno la riforma, la lo so, costituzionale, che intende altro, non ti preoccupare. Stai attento. Ogni volta che dici sì, io dico no. Lo so, ogni volta non, dici no, non ne parlo, sì, non parlo, no, di quello. Anzi, vado via, dai. No, dai.

Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Uno, nessuno, 100 Milan. È pieno di genitori che mandano i figli con una supposta di tachipirina perché avevano la febbre, ma così almeno non stanno a casa e si tolgono dalle balle. Era pieno prima del Covid, qualcuno farà ancora il furbo adesso, non c'è dubbio. Però non è che posso. Sta telefonando il meccanico, però. Chi è il meccanico? Ho portato ieri la macchina dal meccanico, vabbè, rispondo dopo. Ah, ti sta. No, ma rispondi al meccanico. Ormai ha riattaccato. Ma lo richiamalo. So, ma richiamalo in diretta. No, magari non vuole parlare in diretta, non vuole essere così. Ma non lo sentiamo, sentiamo tu. Sei anche subdolo, quindi dici chiamalo che lo sentiamo in diretta. Sentiamo che problema ha la macchina, dai. Allora tu parla che intanto io. Vabbè, tu chiama il meccanico. Allora attenzione, abbiamo sistemato una caldaia in diretta una volta. Sì, perché ieri Leonardo Manera, partendo dalla stazione di Castagnolo, ci diceva appunto che vibrava un po' la macchina, 303.000. Sentiamo. Ciao Simone, scusa, sono in radio e adesso stavo un attimo parlando. Comunque dimmi che cos'ha la macchina. Si sente un po'. Mi sa che sono problemi. Vedo la faccia di Manera, mi sa che sono problemi seri. Però vibrano sempre quando freno praticamente. Sì, sì. Mi sa che è una bella cifra questa, eh. Prova a chiedere un po' più o meno quanto dovrai sistemare un po' tutto. Insomma, mi sa che. Quindi bisognerebbe cambiare dischi e pastiglie, quanto può costare? Ai. 500 euro. Scusa. Il motore? Il motore lì si va sui 2-3 mila. Quindi diciamo, ce la potremmo cavare con 500. Vai, e la sovralimentazione? Aia. Aia ragazzi, la sovralimentazione mi sa che è dura questa, eh. Vabbè dai Leonardo, 500... No, lo dà in certi momenti, soprattutto in salita, non ce la fa più andare. Lì bisognerebbe smontare tutto il motore. Quelle sono cifre, eh. Attenzione. Vabbè. Quindi come ce la caviamo? C'ha la mano sulla testa. Comincia, è il momento della disperazione, signori. Sta cominciando a... Va bene, ci faccio... Sta cominciando anche, ci faccio un pensierino. È abbastanza oneroso. Vabbè, senti, ci penso un attimo e dopo oggi e passo. Ti chiamo dopo, va bene. Grazie. Sì, sì, sì. Ciao Simone, no, ciao. No, oggi non passi, sei a Treviso comunque. Quindi, Leonardo? Ho detto che la questione soprattutto del motore, capire cosa c'è che non va, è piuttosto oneroso. Però 500 euro. No, dai, 500 euro per freni e pastiglie. Sì, poi c'è tutta la questione del motore anche. La mia macchina ha 306.000 chilometri. È onesto Simone, dai però. No, Simone è molto in gamba, è onesto. Più di Cristiano della caldaia. Non c'è qualcuno che mi può regalare venerdì, una macchina. Il venerdì arriva sempre il giorno del conto a Manera. Oggi, vabbè scusa, no, non sto ridendo. No, sto ridendo solo per la funzione radiofonica. Adesso la cambio, la cambierò. Adesso vedrò un po'. Mi dispiace perché io le tengo sempre tanto perché mi ci affeziono. Sì. Questa ha 8 anni la mia. Questa ti sei... L'avevo presa che avevo già 3 anni, quindi adesso ho 11 anni, 306.000 chilometri. Stasera a Treviso con chi ha... tranquilli, ho la mia macchina. Infatti ho detto, c'ho la mia macchina. Quindi andiamo con la mia macchina, lui lo metto nel bagagliaio, così manteniamo un distanziamento fisico. E basta. Va bene, sentiamo Roberto da Pordenone. Magari fa il meccanico, Roberto, non lo so. Roberto? No. Sì, buongiorno, non faccio il meccanico, no, mi piace per Manera. Vabbè, cerchiamo un meccanico a basso costo, grazie. No, va benissimo Simone. Va bene Simone, vai Roberto. Allora, il problema tecnico del ricorso che il governo, il nostro bel governo ha perso al TAR, sì, del Piemonte, nella stanza, sì, ma ci sarà sempre il Consiglio di Stato, si, sì, ricorda. Ma c'è abbastanza semplice. Allora, il presidente della regione ha fatto un'ordinanza molto furba, se vogliamo dire, sì, perché non ha detto deve essere fatta dalla scuola il controllo della temperatura, fatto la scuola deve controllare che sia stato fatto la misurazione sì. della... Infatti l'ordinanza impone di mettere sul diario, di segnare sul diario la temperatura. Esatto, dopodiché però mi permetto di sottolineare una cosa. Il perché dobbiamo essere noi genitori a misurare la temperatura è abbastanza semplice. Sì. Pensate a quanti dispositivi per la misurazione della febbre dovrebbe avere ogni istituto. Ad esempio mia figlia ha 4 ingressi diversi, per cui come minimo ce ne vogliono da 4 a 8 per poter misurare la temperatura in entrata a tutti quanti. Pensate che sia così semplice da trovare? Guardi, oggi? Non semplice da trovare, ci sono paesi in cui lo fanno, ma effettivamente, come ci ha detto prima l'ascoltatore, non è neanche da sottovalutare l'idea che uno la debba misurare a casa, perché se uno ha 3 linee di febbre e va a scuola, magari non se ne accorge in buona fede, non da furbetti, anche in buona fede, va a scuola, durante il tragitto della scuola potrebbe salire su un autobus e a quel punto andrebbe fermato a casa, cioè appena ci si accorge che ha la febbre, non lasciarlo andare con la febbre su uno scuolabus, per esempio, no? Cioè, questa cosa credo che sia abbastanza logica da capire da parte di tutti. No, Roberto. Vabbè, Roberto. Non condivideva e riattaccato. Anch'io avrei riattaccato. Totalmente infastidito dalla mia. Sì, io avrei fatto la stessa cosa. La cosa che mi chiedo è che, visto che nella maggior parte dei casi ci sono asintomatici, non è solo un po' un feticcio questa misurazione della febbre? Perché poi, se quasi tutti, soprattutto i bambini, sono asintomatici, sì, potrebbero ipoteticamente così essere contagiosi anche se non hanno la febbre. Mi sembra che sia veramente un po' un feticcio. Per sì, cui... Però, se ha la febbre, ma a maggior ragione c'è l'allarme che possa in qualche modo essere... Io non credo però positivo. Che i genitori tendano a mandare i figli a scuola anche se ha le 3 linee di febbre. Io... Un tempo... Ma no, nemmeno, guarda, no, nemmeno un tempo sì. Cioè, c'era tendenzialmente l'idea, ma sono un pochino caldo, è una linea di febbre, ma dai, su, che passa? Soprattutto per coloro genitori per i quali è poi una complicazione gestire, se no, il bambino a casa di 8 anni, magari dover chiamare in ufficio, arrivo tardi, chiamare al volo la babysitter, la nonna, il nonno. A volte si dice dai, su, e invece c'era, sai che io mettevo il termometro, quello però a mercurio, sul calorifero. Una volta l'ho fatto. Sì, si faceva così. Solo che quando lo metti all'inizio non fa niente, poi esplode, cioè esplode nel senso che va la temperatura sul mercurio tipo a 42. Io una volta l'ho messo, e solo che poi non potevo dire a mia mamma ho 42 di febbre. E quindi niente. Che caduta di stile, Manera. Le vetture vanno cambiate ogni 4 anni, sia per ragioni fiscali che di manutenzione. Quindi tu ti affezioni... Io mi sono affezionato, è una parte della mia vita, la mia automobile. Quindi la vorrei tenere ancora, purtroppo ormai non ce la fa più e devo continuare a ripararla. Ci chiedono che automobile sia, non so, lo vuoi dire per fare una marca? Magari fai un invito alla marca per dartene una nuova. È la migliore automobile che ho avuto in 11 anni. Ma vuoi dirlo? No, non voglio dirlo. Non vuoi dirlo. No, per fare un appello alla casa automobilistica magari te ne mandavano una nuova. Quante brioche hai mangiato ieri a Castagnolo alla fine? Offerte da... Due, me ne sono arrivate due. Due? Sì. Vabbè, cavolo, due brioche, come me. Cappucci? Caffè? Due. Ma poi c'era il cappuccio da pagare che ti ha lasciato... Non sono più entrato, ovviamente. Ma sei fuggito! Cioè, un ascoltatore ha detto che aveva bevuto un caffè e aveva lasciato, detto sì, paga Manera, e tu non sei andato ma a controllare. Ma non era vero, evidentemente. Io sono ripartito. Potresti essere... Mi sono essere... dato la chetichella. Mamma mia. Invece, dopo il traffico, avremo ospite il sindaco di Colleferro, perché è innegabile, c'è questa polemica a Colleferro, non si parla d'altro, anche ad Artena, anche sui giornali, per la vicenda dei fratelli bianchi, coloro che sono accusati di aver ucciso Willy. Percepivano non tanto loro quanto i loro genitori, i loro familiari, il reddito di cittadinanza. È questa polemica che sappiamo, ne discutiamo col sindaco tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Manera, per la tua macchina fai come gli sportivi, le case automobilistiche devono fornirti una macchina tutti gli anni con cui tu giri tutta l'Italia sponsorizzando con la casa automobilistica, tutto gratis, macchina nuova tutti gli anni. Tu sei un grande personaggio, devi avere questo privilegio. Non lo sapevo che avrebbe detto tac, ma ce l'ho avuto, mi è capitato inglese. Qualche volta mi è capitato qualche volta. Aspetta che ce l'ho. Manera, dischi e pastiglie di una macchina costano 70 euro su eBay, non farti fregare. Cambiarli è un gioco da ragazzi, ti metti tu in box, in due ore lo fa. Ciao, un saluto a tutti. Sono fantastico, il milanese imbrottito. Allora, Azzurra ci scrive, buongiorno. Bello siete, il nome Azzurra, complimenti. Siete a Treviso per uno spettacolo stasera, non è proprio uno spettacolo, siamo sì al Festival della Statistica e della Demografia a Treviso. Che cos'è? Se non è uno spettacolo, cos'è? Un incontro? Dalle 19 alle 20, oggi, venerdì 18, cara Azzurra, se vuoi ci trovi in Loggia dei Cavalieri, dalle 19 alle 20. Parliamo di futuro, un po' di quello che sarà il mondo e di quello che è tra il serio e il faceto. Ovviamente io sono il faceto, il serio è Manera, si sa. Questo è vero. Questo si sa. Va bene, saluto il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie di essere qui. Allora, non si parla d'altro a Colleferro e dintorni, anche se c'è da dire che i familiari dei Fratelli Bianchi sono di Artena. Però... so che l'ufficio che stabilisce la questione di reddito di cittadinanza sì o no è di Colleferro, giusto? Mi corregga se sbaglio, così mi ha detto la nostra prode redazione. A Colleferro c'è il centro per l'impiego comprensoriale, sì, esatto. Che racchiude 9 comuni, esatto. Che funge da appunto da centro per l'impiego, dove sono questi navigator, diciamo. Sì, quindi sono loro, diciamo, che hanno dato hanno erogato il reddito di cittadinanza, sì, evidentemente sulla base di documentazioni fornite. Ora, non è vero che non si parla d'altro, cioè c'è questo scandalo all'interno di una vicenda già tragica di assolutamente persone. Sì, in città ieri, oggi non si parlava d'altro, insomma. Tutti ci domandiamo come sia possibile, come sia potuto accadere. Una cosa così. Risulteranno come familiari, non dico nulla tenenti, ma con un reddito per cui ne hanno diritto, non ne avevano diritto. Ma questo lo stabilirà, io spero che lo stabilirà l'autorità. Spero che si faccia chiarezza su una vicenda come questa, perché l'umiliazione oltre il danno immenso, la beffa oltre la tragedia, sarebbero davvero mal percepiti e mal digeriti dalle nostre comunità, dalla comunità di Artena, che è la loro comunità, ma anche dalla mia comunità, che è la comunità dove si è consumato purtroppo il delitto più atroce e più feroce della nostra storia. Senta, lei ha capito però, se ho capito bene, non lo percepivano le persone in questo momento accusate dell'omicidio, ma i familiari. Questa cosa si è chiarita, se i genitori... No, io ho capito invece che lo percepivano... Tutti. Sì. Cioè, quindi anche i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, loro personalmente. Da quello che ho potuto apprendere dai giornali, sì. Certo che davvero tutti si chiedono oggi sui giornali come è possibile il fisco e i controlli vengono fatti in maniera rigorosa su chi lavora. Cioè se Leonardo Manera non paga una bolletta, io non pago una bolletta, arrivano dopo, non dico dopo 5 minuti, ma non si scappa da queste cose. Com'è possibile che i controlli non siano fatti in modo rigoroso? Ci fanno controlli come se fossimo dei privati, insomma, molto rigidi. E poi come fa a sfuggire sta roba è inconcepibile. È inconcepibile. Lei sa, certo, lei non è il sindaco loro, ma sa se ad Artena, perché poi si mette in moto anche il meccanismo, a volte succede che anche dalle amministrazioni comunali si chiamano le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza o per fare dei lavori socialmente utili o per fare dei lavori per fornire, insomma, delle prestazioni di lavoro. Sa se questo meccanismo è stato attivato nei loro confronti? Qui non è stato ancora attivato. Qui non è stato, però mi farebbe piacere che si attivasse al più presto, perché almeno potremmo utilizzarli nei comuni, questi che prendono il reddito di cittadinanza, e quando capita qualche soggetto come questi, diciamo così, noi sindaci che siamo le uniche sentinelle rimaste sui territori, sicuramente ce ne accorgiamo, insomma. noi di solito ci accorgiamo delle cose che accadono nelle nostre città. A questo proposito, ma lei li conosceva i fratelli Bianchi? Perché sa... Assolutamente no, come non li conosceva nessuno a Colleferro. Questi per fortuna venivano raramente e venivano a tarda notte. Però sì, dopo è pieno di articoli che dicono in fondo tutti sapevano che tipi fossero, ecco, che modi avessero. È assolutamente falso. Io sto tentando in questi giorni di ristabilire la verità, perché buona parte dei media nazionali ci hanno coperti di insulti, di giudizi, diciamo così, inverosimili. Noi siamo una città operaia, qui la gente lavora, fa i turni in fabbrica, non è che c'è tempo per seguire certi tipi di banditi e di criminali. Sì. Qui li conosceva qualcuno che frequentava la vita notturna, diciamo. Non li conosceva certo la città propriamente detta, non li conoscevo io, che pure frequento i locali della Movida quando vado a cena con mia moglie, con una bambina di 2 anni che è mia figlia. Cioè, non è il Bronx quel luogo, no, è un luogo molto bello, certo. È un luogo dove ci sono dei locali che funzionano molto bene. Se poi a tarda notte qualcuno pensava che ci fosse una, diciamo così, maggiore libertà, questo è probabile. Io anche per questo ho fatto un'ordinanza che limita a 12:30 la chiusura degli esercizi e la somministrazione. Ma questo in seguito, questa me era sfuggita, in seguito a questo omicidio? O... L'ho fatta soprattutto per via del Covid, perché gli assembramenti lì sono particolarmente frequenti. Certo che in un momento come questo aiuta soprattutto il mantenimento dell'ordine pubblico. Vogliamo sentire il ministro degli esteri Di Maio, che credo qui, soprattutto anche come esponente del Movimento 5 Stelle, che è la forza che più ha voluto e ha spinto per il reddito di cittadinanza, è intervenuto ieri. La prima cosa che posso dirle è che i controlli si devono intensificare. La seconda cosa è che dobbiamo fare i controlli anche su altro, perché questi dichiaravano nulla al fisco. Quindi hanno pagato meno tasse, hanno avuto probabilmente dei bonus, degli sgravi, degli assegni familiari, non lo so, quindi dobbiamo fare un controllo a tappeto, non vale solo... Sì, certo che effettivamente è un po' il classico gatto che si morde la coda, cioè se uno non dichiara al fisco, mi sto riferendo, non so, verranno fatti gli accertamenti, ma se uno in ipotesi non dichiara al fisco, quindi poi ha anche diritto al reddito di cittadinanza o a misure simili, quindi è tutto, sì, la cosa tutto, che tutto, è tutto che collegato. A volte ci sono delle evidenze. Fare i controlli. Che serve? Sì. Servono gli uomini, servono i mezzi. Ma come si pretende che qui si controlli il territorio se poi la finanza, i carabinieri, la polizia, i vigili urbani siano la metà di quelli che dovrebbero essere? Però, sindaco, giustamente qualche giornale scrive, e lo ripeto, cioè se io non pago la bolletta, lei non la paga, o qui Manera non la paga, secondo me, non so, come la sensazione che mi arrivano dopo, è solo questione di tempo, ma arrivano su questo ha ragione, no, ma io intendevo dire i controlli, diciamo così, in generale sul reddito di cittadinanza. Io la vedo la guardia di finanza della mia città, di questo comprensorio, è evidentemente sotto organico e non si può pretendere che facciano tutto. Certo. È chiaro che se lei non paga la bolletta, l'azienda che gestisce l'acqua piuttosto che il gas, piuttosto che la corrente elettrica, c'ha tutto l'interesse a fargliela recapitare lo stesso. Invece da quell'altro punto di vista, le forze dell'ordine vivono come la pubblica amministrazione 10 anni di cinghia stretta, se non c'è un ripopolamento, se non c'è un irrobustimento delle fila, e poi è difficile dire che... No, ma poi, sindaco, è chiaro, ma sempre non riferendo, lo preciso, non mi riferisco al caso, ma in ipotesi, se uno guadagna soldi con operazioni criminali, è chiaro che quelle sfuggono al fisco, ovviamente, insomma, che ne so, se io mi metto a spacciare... È vero pure l'altra cosa, perché poi io non è che voglio fare la difesa d'ufficio, è vero pure che se vengono a parlare col navigator, una famiglia intera, che porta gli orologi d'oro e c'ha il SUV parcheggiato sotto, il navigator magari una segnalazione la potrebbe pure fare, insomma, prima di concedere il reddito di cittadinanza. Questo ce lo dobbiamo dire. Insomma, sempre ammesso che sia stato fatto il colloquio, è stato fatto da parte di tutta la famiglia, il colloquio con il navigator? Insomma, immagino che qualche documentazione... Se lo prende tutta la famiglia, evidentemente qualche colloquio l'avranno fatto. Sì. Cioè, io non ho fatto mai domanda per reddito di cittadinanza, perché vivo dignitosamente con l'emolumento da sindaco, che non è granché rispetto a tanti altri stipendi di questo paese, ma per me è dignitosissimo, perché io vengo da una famiglia modesta e per me mi passa per tirare per avanti, per campare la famiglia. Però immagino che prenderete di cittadinanza, qualcuno si dovrà regà presso gli uffici a chiederlo, no? E come no, e come no. Non è che te lo danno pure se non lo chiedi. Certo. Sindaco, guardi, io effettivamente devo dire, sembra un po' uno sfregio all'interno di una vicenda già no, tragica. È proprio uno sfregio, non è che sembra uno sfregio, è uno sfregio. È un affronto, è una vergogna, è qualcosa che è chiaro, non lascia spazio a dubbi. Senza dubbio è così. L'unica cosa che almeno la finanza adesso ha richiesto indietro i soldi, si parla di 16.000 euro per la famiglia Bianchi, 12.000 euro per la famiglia Pincarelli, vediamo poi ci sarà anche immagine dei controlli fiscali per eventuali entrate omesse, leggo, nelle domande presentate all'INPS. Sindaco, noi la ringraziamo, sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, questa è la storia, davvero. È una delle criticità che si diceva all'inizio, no? Quando si è parlato di reddito di cittadinanza, che spesso che si diceva che sarebbe finito anche a persone così. Sì, dopodiché, per carità, non vogliamo né che non avrebbero avuto titolo, no, né criminalizzare. Oggi, per correttezza, c'è da dire, Valentina Conte scrive su Repubblica, sono state controllate in 18 mesi di vita il reddito di cittadinanza, è stato revocato a 8.200 famiglie su 1.300.000, stiamo parlando quindi dello 0,6%, quindi 0,6% di furbetti pizzicati, beccati. Non sono tantissimi, certo, in un mondo ideale dovrebbero essere zero i furbetti, non lo 0,6%. Chissà poi, questi sono quelli che hanno preso, ce ne saranno altri che in modo furbo che bello lo se prendono. Come si fa ogni giorno il contagio dei positivi, dei tamponi, si facesse anche quello dei percettori di reddito di cittadinanza non in regola. Non sarebbe male. Oggi abbiamo controllato 100.000 percettori di reddito di cittadinanza, su questi positivi nel senso positivi furbetti, positivi al virus della 1500, furbizia 1200. E però sarebbe... se voi ne controllaste un po' di più, ne trovereste un po' di più. E il lunedì, oggi ci sono meno... Lei minimizza. Oggi ci sono meno furbetti, però ci sono stati anche meno controlli. Meno controlli. Il lunedì, claro, perché sabato e domenica. Sì, non minimizzi però questo problema. È lei che minimizza! Non minimizza. Guarda qua che bel figurino che si è presentato in regia. Signor Mauro Meazza. Deve esserci, signore, qualcosa che non va, perché stamattina quando sono arrivato l'ho incrociato e avevo un'espressione veramente cupa. C'è qualcosa la che maschera. Non è maschera, solo quello. La maschera nera. No, deve esserci qualcosa che non va. Non è riuscito a incassare, secondo me. O forse ha sentito che stanno cercando, setacciando tutti gli elenchi, i furbetti del reddito di cittadinanza, e l'ho visto fare delle telefonate. Guarda come ti guardo senza sorridere per nulla. Proprio o forse è il Milan che ha vinto, che l'ha mal disposto. Non lo so, oggi c'è il qualcosa che non va qui a Mauro Meazza. Una vittoria tonitruante. Dopo, quando ci sarà due di denari, sì, al quale parteciperà anche Alessandro Mina, è vero. Telefonate per chiedere che cos'ha oggi Mauro Meazza, che è così cupo. Chiedete per favore tra le 11 e le 11.30, è vero, sono stato ingaggiato da due di denari, racconterò una vicenda personale, ma dalle 11 alle 11.30 sarò lì, potete chiamare, telefonare e dire Mauro Meazza, perché? Sei così cupo e plumbeo, è plumbeo oggi Mauro Meazza. Lo rivelerà alle 11.15, più o meno, ora la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao ragazzi, ciao Leonardo. Senti, io vendo una Citroen Berlingo bellissima, 130.000 km, diesel, fai 20 con un litro, con 3.600 euro hai fatto l'affare. Dai Manera, oggi viaggerai in limousine con la macchina del Radical Chic Milan. Ma che limousine? Eh sì, perché lui ha la macchina aziendale, è uno di quelli privilegiati. Ma non è aziendale. Sì, è aziendale, sì. Se la cambiano ogni sei mesi, tra l'altro. Ma che ogni sei mesi? È uno dei privilegiati. Cioè la pago, non è che è aziendale che mi danno... Non dire cose che poi dopo pago. È l'unico, ogni, tra l'altro, è l'unico giornalista via, che ha la macchina aziendale. Gli altri devono venire con la loro macchina. È vero. Lui è riuscito a brigare in modo da avere la macchina aziendale. Perché mi hai preso? Hai brigato? Per un Meazza, ma dai, ma no. Lo colgo l'occasione per avvertire anche gli altri giornalisti, ecco, sì, che lui ha la macchina aziendale, a differenza, ci credono, a differenza di Deborah Rosciani, a differenza di David Parenzo, eccetera. Loro non ce l'hanno. Milan ce l'ha, la macchina aziendale, totalmente a carico di Radio 24. Non è vero, non è vero. Allora, ma tra l'altro lunedì riprende Striscia la Notizia, eh? Siamo curiosi di vedere Dario Ballantini, chi imiterà, eccoci, Dario, buongiorno. Buongiorno Dario. Ora, buongiorno Leonardo e Company. Ma cosa volevo dire, lunedì non sbagliamo, è quello dopo, il 28, ah. Ah, stupendo, come quel 28? Io ho scoperto, io dicevo il 23. No, ma cioè, hai fatto venire un coccolone. Ma magari è veramente lunedì e tu non ti hanno aggiornato, no, Dario. Infatti, sono mezzo coccolone, diciamo, non so chi crede. Una telefonata a Ricci mi sa che tocca, finita. No, ragazzi, ce la faccio. Se comincia ora non ce la faccio. Non ce la si fa, però la politica offrirà tanti spunti, mi sa. Mi sa proprio di sì, mascherati o non mascherati, toccherà replicarli di nuovo. Hai già pensato quale sarà il primo che tornerai a interpretare? Ma è per quello che ti parlavo del coccolone, perché al di là di, credo, Conte, Renzi e Salvini che rimangono in testa, è la settimana prossima quella in cui si decide se farne una nuova, quindi per quello mi avete fatto tanta paura. È proprio paura. L'ultimo momento, quindi decidi a pochi giorni. L'attualità, come vedi, qui cambia altro che ogni giorno, ogni mezza giornata. Sì. Mi ricordo una volta si doveva fare la ministra Fedeli come nuovo personaggio, ma ci fu un fatto della Merkel la domenica, allora in corsa è cambiato. Beh, il personaggio del periodo è la Azzolina, però non so se è possibile. No, non mi riesce. Però tu farli bene. Quest'estate l'hai passata quasi tutta a Livorno, credo, no? Guarda, per la mostra che infatti tra un po' chiude proprio domenica, quindi per quello anche ho avuto paura che mi ha detto lunedì. No, infatti arriva proprio giusto un messaggio, perché Ballantini continua a dipingere, perché molti italiani conoscono Dario Ballantini ovviamente per Striscia la Notizia, le imitazioni. Tanti italiani, non tanti quanti gli spettatori della TV chiaramente, non conoscono questo lato interessante, no? Di Ballantini, pittore. Beh, che viene prima dell'altro Ballantini, perché io ho portato a questa mostra antologica che si qui a Livorno anche le prime cose fatte a 17 anni, 18, siamo a 40 anni di pittura. È la vera passione? Prima... È la vera passione? No, è vero, cioè, è la vera necessità anche proprio di espressione, cioè, nel senso, è una dote, la uso, mi piace, eccetera. Però nel caso della pittura è anche un'esigenza personale, cioè ho sempre voluto raccontare con i disegni tutto questo, diciamo una strana urgenza di raccontare l'essere umano, poi l'ho anche preso in giro volentieri, però tanto si prende in giro sempre se stessi. Tra l'altro la tua mostra quest'estate ha avuto anche molto riscontro a Livorno, ho visto servizi, telegiornali, articoli. Sì, sono proprio contento, aspettavo anche te a dire la verità, però vabbè, ti dirò le orecchie che lei per il compleanno di dire qualche cosa. Ma ho visto che sono venuti ospiti molti VIP veri, io mi sentivo inadeguato, così mi sarei No, sono contento che sono venuti anche critici storici toscani di una certa età, e comunque tante visite, stiamo quasi per raggiungere 5.000 visitatori, quindi sia per la città mi fa piacere, perché un'antologica si fa quando si è più vecchietti, invece evidentemente ho avuto questo privilegio di farla a 56 anni. E poi, insomma, con i movimenti, eccetera, impediti dai problemi, tutti questi visitatori. Che tipo di pittura è, però? Cosa ti ispira? Chi ti ispira? Dunque, diciamo che sono del solco dell'espressionismo, e vado subito a spiegare, perché a volte ismo, le persone si confondono giustamente. Cioè, io dipingo quello che sento e non quello che vedo. Però ultimamente, cioè, quindi sono un po' monotematico, faccio sempre degli esseri umani, sempre travolti da segni, da paesaggi un po' urbani che li schiacciano, diciamo che un po' questa è la mia poetica. Siccome gli espressionisti in genere, diciamo, dipingono quello che sentono, ma anche vedendo, insomma, una casa la fanno come gli pare a loro, eccetera. Io invece sono un po' monotematico sull'essere umano. Si può parlare, diciamo, di espressionismo esistenziale, perché metto sempre l'uomo al centro, insomma, qua, delle derivazioni del volto umano, dei profili, insomma, c'è sempre un essere tormentato quale sono. Un essere tormentato. È l'inquietudine, infatti, l'inquietudine è la cosa che caratterizza, insomma, chi è un artista, no? Sia sul palco ma anche nella pittura. Tra l'altro, Dario, noi ci siamo conosciuti, se non sbaglio, fine anni 80 in quello che alla Bocciofila, ti ricordi dove c'era? Esatto, che bello, era vero, il cabaret, il Delfino cabaret, dietro la Bocciofila. Sì. Cioè, appariva questa specie di paese dei balocchi del cabaret. Mm. Si entrava, c'era questa Bocciofila con tutti gli anziani che giocavano appunto a bocce, poi sul retro c'era questo ristorante cabaret, il Derbino, gestito da Renzo Spiroli, dove anche Dario veniva in fine anni 80. Stupendo. E poi ci siamo parlati tante volte dietro le quinte, sui progetti futuri. Ben ti ricordi. Sì, sì, in quel minuscolo camerino che era di un metro quadro prima di salire sul palco. E allora, Dario, però la mostra, ricordiamo, perché è fino a domenica, cioè, ricordiamo chi volesse, insomma, chi capitasse dalle parti di Livorno. Tra l'altro, ieri Manera c'è passato per Livorno, perché tornava da Grosseto, ma non si è fermato. Non vedi, è proprio sì, bisogna anche dire che aveva la macchina in panne, perché lui tralascia fa qui di tutto, signor Milan, tralascia. non quella aziendale che ha lui, no fa di tutto pur di evitare la mostra. È incredibile. No, dici un po', per chi volesse... Sì, è Museo della Città di Livorno, Bottini dell'Olio, nel quartiere proprio chiamato La Venezia, perché ci sono tutti i canali, diciamo, il quartiere più vintage di Livorno, fino a domenica, poi finisce, perché ci sono 47 anni di pittura già per montarla, siamo impazziti. Quindi... Finisce anche perché lunedì inizia a Striscia la Notizia. No, scherzo. Sì, un'altra volta, arriviamo un'altra volta. No, dicevo, vedi che tutto torna, finisce la mostra domenica, perché lunedì subito, sto scherzando. Sì, quasi fatto apposta. Quasi fatto apposta. Tutta la vita a Livorno, diciamo. Va bene, ti ringraziamo moltissimo, grazie. Grazie, però non siete venuti, siete venuti via etere. No, sì, ma Leonardo è peggio, lui è venuto, cioè è passato proprio, ha detto ciao Dario. Ero all'area di servizio Castagnolo. A Castagnolo, est. Ecco. Vedi. Grazie a Dario Ballantini, veramente in bocca al lupo, per tutto, per la vena artistica, per Striscia, insomma, per la professione. Allora, Teo Guadalupi, l'abbiamo seguito. Sì, ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Abbiamo chiuso questa vicenda? Sei andato all'ASL? Ancora no. No dai, il tampone maledetto. Vediamo, che succede? L'hai prenotato però? Allora, l'avevo prenotato questa mattina alle 8:30, in realtà poi mi hanno chiamato finalmente quelli della TS, me l'hanno fissato per oggi pomeriggio alle 2. Come avevi detto che nel momento in cui lo prenoti ti chiamano, vedi che è successo? Sì, però è tutta una cosa assurda, nel senso che mi ha chiamato una persona che in realtà non cercava me, ma cercava la mia compagna per sapere com'era andata la quarantena della bambina, che nel frattempo l'aveva già finita e aveva già fatto i due tamponi, eccetera, eccetera. E io mi sono palesemente lamentato dicendo però non è possibile imprigionare così una persona, questa qui ha cercato di impietosirmi raccontandomi di turni massacranti, carenza di personale, questa qui che sta andando a casa tutte le sere alle 10 di sera, eccetera, eccetera. Ma sinceramente ero talmente imbruttito che non mi sono commosso, ve lo dico sinceramente. Vabbè, quindi... Però attenzione, alle ore 14 di oggi, ma vai tu o vengo loro? Vado io alla Villa Marelli, quindi per fortuna anche a 5 minuti qui da casa, che vado tranquillamente a piedi. Fai il tampone. Farò questo tampone e prenderò il virus come giustamente mi ha proprio. E a quel punto farai altre 3 settimane di quarantena. Non succederà, noi lunedì. Non succederà, non è detto, può capitare. Non si può escludere a priori. Ma certo, non si può escludere niente nella vita a priori. Teo, lunedì sono sicuro che con la chiamata certificherai di essere tamponato nel senso di tampone e negativo. Ci sentiamo lunedì. Sperando di avere già risultato lunedì, perché fare il tampone il venerdì pomeriggio. No, io lo escludo. È la sfiga più grossa del mondo. Lo escludo che tu ce l'abbia già lunedì. Secondo me è verso mercoledì. Esatto. Secondo me mercoledì sarai libero. Dai, tieni duro. Ci sentiamo presto. Un abbraccio. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. A Allora signori, 10:48 minuti, siamo quasi in chiusura. Poi vi ricordo che io e Leonardo Manera partiremo per Treviso, dove oggi alle 19, se volete, ci trovate alla Loggia dei Cavalieri, al Festival della Statistica e della Demografia, dalle 19 alle 20. È venuto a trovarci però, è da un po' che ne avevamo perso le tracce, l'abbiamo recuperato, Gaudino, che è una sorta di cavia umana. Signor Gaudino, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ah, la cavia umana... Io sono il risultato di un esperimento scientifico perfettamente riuscito. Ah. Mi hanno chiuso per un anno dentro una stanza a guardare tutti i programmi di Barbara D'Urso. E adesso finalmente sono felice e mi sono fatto una cultura... Ah, però. So tutte le cose più importanti che succedono al mondo. Tutte. Esclusivo! Ah, continua la storia d'amore tra Federica Panicucci e suo compagno Marco Bacini. Forse perché a letto sono bravi a muovere i bacini. Sì. Esclusivo! Bianca Guaccero ha dichiarato che il suo colore preferito è il giallo. Ah. Strano, perché si chiama Bianca. Esclusivo! 24 anni d'amore per il cantante Neck con la sua Francesca. 24 anni senza tradimenti, forse perché Laura non c'è. Ragazzi, io... Io adoro il mondo dei VIP, sì, sì. Perché anch'io sogno di diventare un VIP. E anch'io ho i miei sogni. Sogno di arrivare al billionaire e di essere nella lista del privé, con le cubiste che mi twercano davanti al naso, anzi, con Briatore che mi twerca davanti al naso. Sogno di conoscere Carlo Cracco e di poterlo chiamare semplicemente Carlo. Sogno di entrare nella cucina personale di semplicemente Carlo e di essere umiliato da lui per come cucino. Sogno lo chef Cannavacciuolo che mi dà una mazzata sulla schiena e mi incrina le costole. Sogno di scoprire cosa c'è sotto la botola di caduta libera. Perché io sono un tipo che ha delle curiosità scientifiche. Sì, proprio. Sogno di essere nominato tronista ad honorem. Anche se non so dov'è honorem. Forse un paesino della Puglia. Ma no. Sogno di avere la profondità intellettuale di Enrico Papi. Sogno di essere la barba di Bobo Vieri. Che lui mi rasa e poi dice shave like a bomber. Sogno di essere cucinato da Benedetta Parodi. Sogno di avere un'automobile, una Lamborghini. E poi di avere un figlio per poterlo portare a scuola con l'automobile Lamborghini. Sogno donne che mi apprezzano non per quello che sono, ma per quello che ho. E infine, sogno di fidanzarmi con una modella tutta tatuata, che si è fatta tatuare il mio nome sulla pancia e sulla schiena. Poi sogno di litigare con lei, entrare in crisi di coppia, partecipare a Temptation Island e chiarire le cose nel falò del confronto. Ecco, se si realizzeranno tutte queste cose, io sarò felice per sempre e andrò a dirlo a tutti i parenti a C'è posta per te, dove finalmente potrò godere della luce di Maria. Gaudino, devo dire che un anno a vedere questi programmi, gli effetti si vedono effettivamente. Sì, adesso finalmente ho capito dove sta la felicità. E sono anche molto aggiornato su quello che succede al mondo. Eh sì. Flavia Vento esclusivo! Attenzione, che succede? Ha lasciato la casa del Grande Fratello perché le mancavano i suoi amici a quattro zampe, che si chiamano Fabrizia, Piri e Bambù. Senza di lei, Flavia fa una vita da cani. (Ride) bella. Ma grazie Barbara, esclusivo! Notizia shock! Notizia bomba! Ma scusi, la risata... Ma questa... Quando lei era piccolo rideva così o... No! Io rido così solo perché mi hanno chiuso per un anno in una stanza a guardare tutti i programmi di Barbara. Perfetto. Da quando insomma è felice veramente. Sì, ho trovato la felicità. La vita mi sorride, ho capito tutto. Allora, Gaudino, guardi, la porto con me. Solo una cosa non ho capito. Sì. Quando posso comprare un divano da poltrone e sofà senza sconti? Non lo so. Guardi, lei mette talmente buon umore che la porto con me, Manera, per andare a Treviso in macchina. Perché vorrei questa risata che per 3 ore passa di viaggio che mi accompagnasse così lungo l'autostrada serenissima. Va bene. La serenissima! Anche Barbara è serenissima! Allora è venerdì, ci ritroviamo lunedì alle 9. Sì! A lunedì. Non si rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Nessuno, 100.000. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.